America 24 di Mario Platero. The President of the United States of America, Barack Obama, and the President of the Russian Federation, Dmitry Medvedev, are signing the treaty between the United States of America and the Russian Federation on measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms and the protocol to it. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Da Praga, al seguito del presidente Obama, Mario Platero, trombe e fanfare. Le avete sentite, minuetto storico sulle rive della Moldava a Praga. E storia di ieri, due successi. Il primo, la firma del trattato che riduce le armi nucleari di Russia e Stati Uniti e soprattutto una svolta nelle relazioni fra i due paesi. Torna la partnership globale, ma Barack Obama guarda già in avanti alle nuove pagine di storia che scriverà lunedì e martedì a Washington. Finally, this day demonstrates the determination of the United States and Russia, the two nations that hold over 90% of the world's nuclear weapons. Le due nazioni, Russia e Stati Uniti, che hanno il 90% degli armamenti nucleari, hanno la leadership per guidare una non proliferazione globale, ha detto Obama in questa sua dichiarazione prima di partire poche ore fa da Praga, dopo il bilaterale con il presidente della Repubblica Ceca, Václav Klaus. L'occasione diventa adesso il vertice di Washington sulla non proliferazione. 47 leader di altrettanti paesi invitati, incluso il presidente Berlusconi, un'agenda fitta, non proliferazione, recupero, controllo e censimento delle scorie nucleari e soprattutto un obiettivo di più vasto respiro la settimana prossima, lunedì e martedì a Washington, l'isolamento dell'Iran. Those nations that follow the rules will find greater security and opportunity. Those nations that refuse to meet their obligations will be isolated. Chi non ci seguirà, chi violerà le regole della non proliferazione, pagherà le conseguenze. Per questo la Russia e gli USA sono parte di una coalizione che chiede che la Repubblica Islamica dell'Iran, dice Obama, subisca anche lei conseguenze, visto che non hanno mai rispettato i loro obblighi. Lavoriamo con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, spiega il presidente americano, per passare forti sanzioni contro l'Iran. In realtà sappiamo che in nome del compromesso, queste sanzioni alla fine saranno più intelligenti che dure, come dice Medvedev, più dure per la popolazione naturalmente, e una delle richieste della Russia per accettare il compromesso e mettersi d'accordo con l'America. L'obiettivo sarà quello di far sentire Teheran isolata, ma adesso occorre convincere la Cina. Lunedì mattina ci sarà un vertice fra Obama e Hu Jintao ai margini dell'incontro di Washington. E di questo parliamo con Kenneth Katzman del Center for Strategic Studies a Washington. L'ho sentito poco fa per valutare la portata di questa strategia contro l'Iran e soprattutto se queste sanzioni potranno davvero avere successo. With the sanctions under discussion, probably that would not be achieved, but Katzman dice che le sanzioni intelligenti, come dice Medvedev, per non danneggiare la popolazione civile, probabilmente non scoraggeranno l'Iran dal perseguire la produzione di armi nucleari. Ma se le sanzioni si ripeteranno ogni 2 o 3 mesi, perché a varie scadenze Teheran rifiuterà di rispondere, forse la pressione potrebbe cominciare a funzionare. Le sanzioni non colpiranno l'economia o la popolazione civile, ma dovrebbero essere usate in maniera diretta per bloccare l'acquisizione di materiale nucleare e di attrezzature, di materie prime e quant'altro. La Russia ci sta e la Cina dunque, forse già lunedì sapremo, ma se la Cina accetta, allora per Teheran le cose si faranno davvero difficili. Magari rallenterà il programma, dice Katzman, e sarà già qualcosa. The opposition was partly motivated by the belief that the regime was isolating Iran. Le sanzioni avranno un altro risultato. Potrebbero rivitalizzare l'opposizione interna in Iran e la renderanno più forte. L'opposizione era parzialmente motivata dall'idea che il regime isolasse l'Iran, chiudendolo al contatto con l'Occidente e dunque la protesta. Se le sanzioni dovessero rafforzare questa idea, il popolo verde, la protesta iraniana potrebbe scatenarsi di nuovo, riattivarsi, e più iraniani potrebbero unirsi al movimento. Gli Stati Uniti hanno questo obiettivo in testa, secondo Katzman. Alcuni scienziati inoltre hanno smesso di contribuire ai programmi atomici iraniani, scienziati iraniani intendo, e si sentono fedeli alla protesta verde. Per questo, tutto considerato, se c'è già stato un rallentamento nel programma nucleare è proprio per questi sviluppi. Detto questo, se l'Iran riuscirà a ottenere lo stesso armi nucleari, beh, saranno guai. Chiediamo infine a Katzman quale sarà l'impatto sui terroristi, sulla psicologia dei terroristi, dalla rinuncia di Obama ad usare armi nucleari contro stati che usano le armi chimiche annunciata qualche giorno fa. Al-Qaeda, which was based at that time in Afghanistan, it didn't use chemical weapons, but it carried out obviously a major attack on the United States on September 11. Beh, su questo punto, Katzman, è chiaro, Al-Qaeda non aveva usato armi chimiche contro gli Stati Uniti per l'attacco dell'11 settembre. Fu un attacco devastante, ma convenzionale. Ebbene, in quell'occasione gli Stati Uniti, nonostante la strage, la distruzione tremenda, l'attacco psicologico, decisero di rispondere con un attacco convenzionale, non con un attacco atomico. Sembra che addirittura non se ne sia davvero parlato mai seriamente, perché il pensiero dei presidenti americani resta che la risposta a un attacco anche mirato debba essere convenzionale e non atomico, a meno che di casi estremi e dunque a meno che non ci sia in ballo un attacco, una minaccia nucleare diretta contro gli Stati Uniti. Allora potremmo chiederci perché annunciare esplicitamente questa concessione da parte americana se la policy segreta era comunque già quella di una moderazione. Beh, ecco, forse per capitalizzare. Se comunque non si useranno armi atomiche, se non in casi di attacchi atomici, beh, tanto vale fare il bel gesto per incassare solidarietà, magari, torno a dire e sottolineo, da parte della Cina. Cina che resta al centro del dibattito anche per ragioni economiche. Abbiamo appreso nei giorni scorsi che Ba Shuxiang, alto funzionario cinese, ha detto abbastanza esplicitamente che forse vi saranno delle operazioni di mercato che potranno portare a una graduale rivalutazione dello yuan. Notizia bomba, se sarà confermata poi anche dalle autorità. Però sappiamo che il segretario al tesoro americano Timothy Geithner ieri ha incontrato il vice premier cinese Wang Qishan a Pechino. Dialogo aperto. Sappiamo che non si è parlato, almeno ufficialmente, di yuan. E beh, questo perché? Perché la Cina su questo vuole muoversi da sola. Se si andrà avanti, ripeto, sarà una svolta. Del resto, poi, se cinesi e americani si incontrano a questi livelli nella situazione di tensione in cui si era fino a poche settimane fa, beh, vuol dire che forse sono vicini a una soluzione su un tema che ha già minacciato di pesare sulla cooperazione tra i due paesi, sulla ripresa economica globale, sul programma nucleare iraniano e su altre questioni, ad esempio la minaccia dei due senatori di sanzioni commerciali. Di nuovo, forse lunedì sapremo qualche cosa di più. Passiamo a una curiosità. Quando torneranno a Chicago, gli Obama avranno dei nuovi vicini di casa da conoscere. La casa di 17 stanze di fianco a quella della famiglia presidenziale è stata venduta finalmente per 1,4 milioni di dollari. Era stata sul mercato 7 mesi. I vecchi proprietari, la famiglia Grimshaw, hanno sofferto anche loro della crisi immobiliare. Avevano comprato, sì, quell'abitazione nel 73 per $35,000, quindi profitto enorme, però i prezzi di mercato prima della crisi erano più vicini ai 2 milioni di dollari, avevano chiesto 1,85, alla fine hanno venduto per 1,4. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee che potremmo continuare a darvi anche qui da Praga su questa America che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, Jim Morrison, Come non l'avete mai visto, la vera storia dei Doors, e questo che promette When You're Strange, a film about the Doors, un documentario di 90 minuti presentato ieri al Sundance Kabuki Cinemas di San Francisco. Il regista Tom DeSilio ha usato immagini originali inedite per raccontare la storia di questa rock band dagli esordi nel 65 fino alla morte del frontman Morrison nel 71. Narrazione Johnny Depp. E dunque The Doors, ascoltiamo Light My Fire, uscita nel 1967. Bene, da Praga è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento alla settimana prossima a Washington per quest'altro storico vertice. Goodbye and get going!